patto è sindoso zapaldo l'aino pesala da patto è sindoso zapaldo patto è sindoso. Baita e riazza, ignoranzia, biazza cia. Patu a e riazza, ignoranzia, biazza cia. Patu a crudelata, patu a crudelata, auda misteri. Patto a sindoso zapaldo l'aino pesala da patto a sindoso zapaldo patto a sindoso. Baina baita eirotza, ignorantzia, bihotz hautia, bihotz hautia. Batua eriotza, ignorantzia, bihotz hautia. Batua krudela bat. Crudelata, padua crudelata, padua crudelata, padua crudelata, auda misterioa.